Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Oggi partiamo dall'area Schengen, l'area Schengen che da tempo di fatto soffre sotto il peso dei flussi migratori, delle minacce non seconde, quello del terrorismo. Il rimedio per molti ormai è il controllo delle frontiere esterne. Lo stato di salute difficile dell'area europea di libero movimento è fotografato dall'ottava relazione biennale che Bruxelles pubblica assieme a due proposte che vanno proprio nella direzione di sigillare o quantomeno di rendere meno penetrabili i confini europei. Da un lato una modifica mirata del codice Schengen per rendere obbligatori i controlli su cittadini UE in entrata e in uscita dalle frontiere esterne contro il fenomeno dei foreign fighter. Dall'altro un'agenzia europea di guardia coste e guardie di frontiere fortemente voluta da Jean-Claude Juncker, una forza UE che dovrebbe nascere sulle ceneri di Frontex ma con molti più poteri che Bruxelles vorrebbe impiegare in caso di estrema necessità anche contro la volontà degli stati, erodendo così ulteriormente quella che è la loro tradizionale sovranità. Insomma, questi i temi di un incontro che poi è l'incontro tra capi di stato e di governo di fine anno, domani e dopodomani a Bruxelles, e di questo naturalmente ha parlato anche il primo ministro italiano Matteo Renzi questa mattina in Parlamento. Evitare toni superficiali, reazioni emotive e vedere questo appuntamento, il primo ufficiale dopo i terribili fatti di Parigi, come occasione per riflettere su una risposta corretta da parte dell'Europa alle sfide che ci attendono. Matteo Renzi esordisce così nelle sue comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. Sul tavolo i temi della lotta al terrorismo e dell'immigrazione, con la proposta della Commissione di creare una guardia di frontiera e costiera sulle ceneri di Frontex con 1.500 uomini pronti a intervenire in caso di necessità e più controlli per chi entra nella zona Schengen. Intanto il Premier rilancia sull'impegno dell'Italia in merito all'identificazione digitale e ritiene strabiliante la procedura europea contro il nostro paese. Non tutte le persone che abbiamo salvato in mare sono state identificate con le impronte digitali. Non tutte le persone che sono arrivate in Germania nel mese di agosto sono state identificate. E la cancelliera Merkel disse allora queste parole: prima la solidarietà, poi la burocrazia. Quello che vale per la Germania evidentemente sembra non valere per l'Italia. In particolare l'Italia è sotto accusa per i lenti progressi nell'adeguarsi alla realtà dei centri di accoglienza hotspot, ma su questo assicura Renzi: siamo pronti. L'Italia ha aperto il primo hotspot, domani si aprirà il secondo a Trapani. Siamo pronti su Tara, su Pozzallo. Chiederemo agli europei se sono in grado di tener fede ai loro impegni. In ogni caso, dice ancora Renzi, blindarsi, sigillare i confini non serve a nulla, la risposta deve essere ancora una volta culturale. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E naturalmente vi aggiorneremo per tutta questa settimana appunto sugli sviluppi di quello che, lo ricordiamo, è l'ultimo grande appuntamento europeo di fatto del 2015. Adesso invece parliamo di Facebook. A proposito del più popolare dei social network, l'Europa ha un progetto. Impossibile accedere a Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram se hai meno di 16 anni. Questo potrebbe accadere nel giro di un paio d'anni a chi è cittadino europeo. Della questione minori, sicurezza, dati personali e social network si discute da molto. Gli Stati Uniti hanno posto come limite i 13 anni. Eppure, per alcuni è pretestuoso questo dibattito, se è vero che le statistiche dicono che nel mondo il 70% di chi ha fra 9 e 12 anni ha un profilo sui social network. L'Europa si è posta la questione e con un emendamento alla legge sui dati personali, l'Europarlamento ha deciso di alzare a 16 anni l'accesso ai social network, salvo consenso dei genitori. Sono preoccupati principalmente i gestori dei social network. Il compromesso politico europeo verrà formalizzato giorni e pubblicato in gennaio nella Gazzetta Ufficiale. Gli stati avranno 2 anni per recepirlo, se ne parla dunque nel 2018. Ma cosa ne pensano i ragazzi? Questi sono gli studenti dell'Istituto d'Arte Michelangelo Guggenheim di Venezia che hanno realizzato un lavoro molto bello sui social network. Presente persone ipnotizzante quasi. Questo potrebbe essere un mezzo come può essere telegiornale o... Se dicessi che non lo voglio mentirei. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E infine un aggiornamento sul grande tema dell'allargamento europeo, dunque di un'Europa oggi a 28. Il 29esimo potrebbe essere la Serbia. Serbia che tratta ormai da qualche anno con Bruxelles e che, come sappiamo, ha un grosso nodo irrisolto nella questione Kosovo. Intanto il presidente Nikolic, che saluta l'apertura dei primi due capitoli negoziali, e dice: l'Unione Europea ha riconosciuto i nostri grandi progressi, progressi sul campo e sulla strada dell'integrazione europea. Ecco, rimane però appunto il nodo del cosiddetto capitolo 35, cioè relativo al Kosovo. Bisognerà infatti vedere, ha detto Nikolic alla TV pubblica, se l'Unione Europea vorrà integrare la Serbia con o senza il Kosovo. In altre parole, se alla fine non porrà il riconoscimento dell'indipendenza di Pristina quale condizione per l'adesione. Staremo a vedere. Con questo è tutto per le notizie europee. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.